volte che prendo, non c'è modo di starsene fuori da ciò che lo rende tremendo e stupendo. La canzone è rimasta nel vento, le sorprese che fa il firmamento, ed i primi che mangiano tutto e gli ultimi pagano tutto quel conto. Per il cielo è un po' presto, per l'inferno non c'è posto, per qualcuno è solo buio pesto. A mia volta ti apro la casa e ti trovi davanti un vampiro, che a mia volta devo succhiare tutto l'amore che riesco a rubare. Per me la linea sottile fra baciare e mangiare, la linea sottile tra venire e partire, c'è una linea sottile fra star fermi e subire. Cosa pensi di fare? Da che parte vuoi stare? Una volta non smetto d'andare, anche se non si sa ancora dove. A mia volta invecchio alla svelta perché non rinuncio a una certa illusione. Una faccia che sembra destino ed un vecchio che torna bambino, e traguardi che sono partenze ed un tramonto che come un mattino. Per il cielo è un po' presto, per l'inferno non c'è posto, per qualcuno è solo l'antipasto. Mi lascio un po' stare e mi faccio un periodo di mare. A mia volta non è che mi cerco, che poi non si sa cosa posso trovare. Da me la linea sottile fra il tuo bene e il tuo male, la linea sottile fra dormire e sognare, c'è una linea sottile fra tacere e subire. Cosa pensi di fare? Da che parte vuoi stare? Vuoi vedere che non era niente? Vuoi vedere che era già tutto lì? Vuoi vedere che è venuto il tempo e che è facile così? Fra la noia e il bicchiere c'è una linea sottile, per aspettare e scoppiare. Cosa pensi di fare? Da che parte vuoi stare? La linea sottile fra baciare e mangiare, la linea sottile partire, c'è una linea sottile tra star fermi e subire. Cosa pensi di fare? Da che parte vuoi stare?